Barisone è diventato vicepresidente, né? Crucia, è inutile che lei fa il saputello, lei rimarrà anche fra 10 anni a dire tonnellate di male parole con la sua trasmissione, con il pezzo di merda che c'è a fianco. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Tutte le domande, alcune risposte, tutti i giorni, le opinioni, tutte, sempre. La politica, l'economia, le storie, il racconto del paese è in onda. È meraviglioso, meraviglioso. David Parenzo e Luca Telese conducono In Onda. Quando? Questa sera alle 20:30 sulla 7. La 7, sai cosa vedi? La tua trasmissione in onda e non in culo. No, guardi, lei si sta sbagliando. Fammi ringraziare fra i tantissimi medici il dottor De Donno dell'ospedale di Mantova, che ha già curato e guarito decine di persone grazie alla cura col plasma autoimmune. La Ceccardi, candidata donna leghista in Emilia Romagna, al guinzaglio, dice il presidente della regione toscana. L'immortacci vostra! L'immortacci vostra, dico io, perché se questa cosa l'avesse detta qualcuno, la Murgia, a uno di sinistra, la Murgia ci avrebbe preso a borsettate! Yeah! È un bambino di un ragazzino di 14 anni, ragiona meglio di questo qua. Fa discorsi proprio da bullo scemo, ma non si rende conto perché lui è proprio fatto così, è malato. È malato, è malato. È un decelebrato. Buongiorno! Lei si sta sbagliando. Dica, parli, dica! Perché la mia commercialista Pina Pitone adesso deve mettere un altro codice IBAN. Sei veramente un personaggio incredibile, caro Davide. Sei veramente un personaggio incredibile. Ma che ho fatto io? No, che sei ho fatto incredibile. Sto... Perché in altre occasioni avresti fatto l'inferno. Invece adesso un signore di sinistra, un signore di sinistra dice che la signora Ceccardi, candidata del centrodestra, leghista in Toscana, deve stare al guinzaglio, è al guinzaglio di Salvini, che per me può dire quello che vuole. Male, e tu male. Muto e tu non dici niente. No, ma che muto? È iniziata adesso la trasmissione. Non dici niente. No, mi hai detto, mi hai detto che è vero, mi hai detto è vero, ma è una burattina in mano a Salvini. Ma questo mi carità, hai detto. Non mi sarei mai permesso. E non fare lo gnorri, non lo vuoi dire, ma lo pensi. Non lo vuoi dire, ma lo pensi. Non ho mai usato questo linguaggio, vergogna. Le critiche è sempre sul piano politico, mai sul piano personale. No, non mi sarei mai permesso. Comunque, ragazzi, di dire incredibilmente mai, io penso che sia una frase normale. Ha sbagliato il candidato. No, voleva dire, invece sei tu che accusi me, ma in realtà sei tu che pensi che sia giusto così. No, esattamente è il contrario. Così. Voleva io dire, penso che voleva il dire, candidato del centro-sinistra ha sbagliato. No, fine. Voleva molto dire anche semplicemente che secondo lui è una in mano a Salvini, punto e basta. La frase poteva usare un'altra espressione meno infelice. La vergogna è un'altra. Quindi avete visto, è esattamente il contrario. Sei tu che difendi questa espressione. Sì, ma la vergogna, certo, io la difendo, ma la vergogna è un'altra. Ecco. Che voi del politicamente corretto non dite una parola a favore della Ceccardi, non dite una parola, non dite nulla. Comunque, ragazzi, Monte Rosa 91 20 149 Milano, eccoci qui, applausi. Il collegamento dagli studi della 7, David Parenzo. No, dagli uffici della 7. Da un ufficio che mi è stato generosamente messo a disposizione dall'amministrazione. Grazie. un ufficio che vi è stato dotato di aria condizionata, di un piccolo bagno, sì, di un'acqua fresca. So che c'è anche fresca, un cameriere, sì. So che c'è anche un tutti, cameriere. No, no, vabbè, quello sì, non c'è. C'è un cameriere, sì, mi hanno detto un che c'è un ufficio che vi è stato, non c'è nessun cameriere, messo a disposizione dall'ottimo amministratore delegato dell'azienda, o CEO, che se ne dica, sì, per poter trasmettere in piena poter, tranquillità, Gigliani, in piena se vogliamo dirlo, sì, per poter trasmettere in serenità in e con concentrazione questa maledetta e maldestra trasmissione, per poi prepararsi invece al prime time. Bellissimo. Delle 20:34. Ah, quindi permettimi di usare questa emittente, sì, per ringraziare il CEO dell'azienda che mi avesse bisogno di questa che piccola culo struttura, che ma lecca culo, questa piccola sei ma potente un, struttura, sei diciamo veramente così, un lecca culo, questa piccola ma potente struttura. Ecco, poi. Comunque ragazzi, questi dell'OMS che dicono abbiamo finito, allora sono... ci vediamo domani, grazie agli ascoltatori. Questi dell'OMS no, che dicono che c'è ancora, sì, un terrore incredibile che bisogna avere. Beh, certo, che bisogna avere timore. Beh, sono certo dei menagrami pazzeschi, no, oggi in Italia abbiamo il minimo dei morti. Il minimo dei morti. Ma meno male, meno male, certo, meno gramo. Questi dell'OMS maledetti, siano maledetti, non me ne porto un cazzo. Siano maledetti questi dell'OMS, maledetti. E in Cina? Maledetti. E in Cina? Fatemi risentire Porro su coso, fatemi risentire Porro su. Ma perché tu te la prendi con l'OMS per anziché, carità, anziché per con i diffusori di false notizie? Ma vabbè, l'OMS è prima in classifica da questo punto di vista, nel podio più assoluto. Ma figuriamoci. Il podio figuriamoci più assoluto sono l'OMS. La Ceccardi, candidata donna leghista in Emilia-Romagna, al guinzaglio, dice il presidente della regione toscana. L'immortacci vostra! L'immortacci vostra, dico io, perché se questa cosa l'avesse detta qualcuno, la Murgia, a uno di sinistra, la Murgia ci avrebbe preso a borsettate, ci avrebbe fatto un mazzo così, avrebbe letto gli ultimi passi di Milan Kundera, avrebbe letto una poesia di Cavaki, ci avrebbe fatto leggere i primi numeri di Topolino. Ha perfettamente ragione Porro. La frase esatta no, è questa: ha perfettamente ragione Porro. Il mio avversario sarà Matteo Salvini, dice questo Gianni, candidato del centro-sinistra in questo Toscana, è vero, probabilmente, che si porta dietro al guinzaglio una candidata, proprio come è successo in Emilia-Romagna tra Lucia Borgonzone e Stefano Bonaccini. Si porta, in Emilia-Romagna è successo si porta questo dietro, ma ah, è successo questo cosa che era il guinzaglio, non ho capito che cazzo vuol dire. C'è il leader no, nazionale più forte, un candidato che cazzo vuol dire, che il protagonista assoluto ah, è stato Salvini versus Bonaccini. Lo vedi che lo giustifichi, no, vai. Io non dai, giustifico dai l'espressione, ah, ma cagare politicamente probabilmente e è allora, così. E allora, dai. No, l'espressione però è molto infelice. Vabbè. Se a essere presa per il guinzaglio è una candidata giovane della Lega, se ne fottono tutti. Questo è il giornalismo italiano, questo è il progressismo italiano, questo è il black panterismo italiano. Ma il punto che non si coglie è che si deve avere il diritto di poter dire che la Ceccardi è al guinzaglio e non scandalizzarsi, giusto, perché la così Ceccardi è in grado di rispondere a questa roba con un sorriso o no, con un calcio nel sedere, a seconda della sua indole, perché non succede nulla. Quello che succede è che un mondo è assurdo se mi toglie una statua, se mi permette, non mi permette di fare una pubblicità con scritto sbiancato, non se c'è un cretino che l'unico argomento che c'ha con la Ceccardi è dire che è al guinzaglio, perché se questo è l'unico suo argomento, qualifica il cretino, punto. Allora, al di là del cretino no, il punto è proprio questo, cioè Gianni è libero di dire che la Ceccardi deve essere libero, non si deve tirare indietro, infatti non si è tirato indietro. No, ma scusa, di dire, avete appena aspetta, detto che non va bene. Di dire alla cioè, Ceccardi, voi dite tutto il di suo dire contrario alla Ceccardi di no, ma perché non capisci qual è il punto cioè, fondamentale. Pur di attaccare la sinistra il politicamente sinistra, corretto, siete in grado di sostenere qualunque cosa. No, cioè voi siete no i primi, tu e Porro e la vostra compagnia di giro, ma quale siete compagno i primi a sostenere testa, siete i primi. No, ma avete la stessa tesi, assuma è tutto, ma che diciamo, tesi? Beh, ma sull'onda tesi del dire contro il politicamente corretto, adesso certo dite che si può usare certo quell'espressione assolutamente infelice, assolutamente può, cioè, salvo poi dire felice che è la sinistra no che malata che lo usa, no, cioè siete veramente assolutamente fuori di no testa al contrario ormai. No, non hai capito qual è il punto è un altro, il punto è Gianni è liberissimo, no, no, esattamente Gianni questo è liberissimo di dire quello che invece vuole, secondo e non me ha detto una sciocchezza, va bene d'accordo, Gianni di sinistra, va bene, di destra, è liberissimo, certe cose non andrebbero dette, fammi spiegare un attimo. Gianni è libero di dire quello che vuole, deve avere il diritto di dire che quella sta al guinzaglio di Salvini, perché la Ceccardi si difende da solo da questa accusa. Il punto è che se lo avesse detto la Ceccardi di qualcun altro o Salvini di qualcun altro, lo avreste massacrato. come no, maschilista, non va, ma figlio chi? Di puttana, maledetto. Ma io tu ho e la detto tua esattamente combricola. Il contrario. Tu e la tua combriccola. Ho detto esattamente il contrario. Comunque, ragazzi, che non va detto, punto. Al contrario, da sinistra, al contrario, invece, deve essere mi detto perché è una cosa sugli libera. Specchi. Allora, la cosa fondamentale è questa: l'OMS dice che il peggio deve ancora venire. Menagramo d'un menagramo, il capo dell'OMS, che per me menagramo conta, d'un menagramo. Che per me non conta un cazzo, conta più l'opinione di Parenzo, no, che quella del capo dell'OMS, che è un signor nessuno al servizio di qualcun altro. L'OMS dovrebbe essere chiusa, sbarrata, a tirare giù la Claire. Questo signore non so dove è etiope, ma ti pare che un etiope può fare il capo dell'OMS? Ma un etiope, il rappresentante è di nessuno. Che vuol no, dire? Perché non rappresenta perché? Nessuno. Perché non rappresenta beh, nessuno. È un'organizzazione multilaterale, un piccolo paese, che vuol dire? Amico mio, il punto ma fondamentale, ma non ma per l'Etiopia, lui. Mica perché è nero. Sto dicendo perché allora, fosse anche uno di un piccolo paese, è evidente che non conta nulla, no? È in mano ad altre persone. Ma il punto è un altro. Ma che vuol dire? L'OMS si è contraddetta, adesso ci viene a dire che il peggio deve ancora venire. Viva Zangrillo, in Italia non ci sono focolai di malattia. Tiè, menagramo d'un menagramo. Che non è un virologo. Tiè, menagramo, ma chi se ne frega, che è meglio se non è un virologo. È uno che vede le schede dei pazienti, sa che cosa succede, dimmi. Vai. In Italia cosa sta succedendo? Sta succedendo che abbiamo tutta una serie di focolai che, come correttamente il professor Crisanti ha più volte detto, vanno controllati, vanno immediatamente identificati, ma non equivalgono a focolai di malattia. Il virus c'è, il virus non è mutato, il virus però è andato incontro nella sua interazione con l'ospite attraverso un fenomeno che si chiama omoplasia, a una perdita della carica che è stata rilevata in laboratorio e quindi è un'evidenza a cui corrisponde la mancanza di malattia. Ormai è tutto degradato. La zanzara. Zanzarosi, giornata difficile, eh? Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. Eccolo! Crucia, sono appena arrivato alla stazione centrale di Milano. Sì. Ho visto più negri, no, questo... arabi, zingari, marrucchini in 3 minuti che sto qua a Milano, sì, che in 5 anni che vivo in Polonia pure. Grazie al cazzo che quello che vive ai prati a Roma se li coccola. Ah, già stanno. Andavo. Allora ragazzi, mi viene da ridere. Ma risponde in maniera ironica, perché di fronte a follie non so, non si può che rispondere in maniera ironica. Tu sai che cos'è la Confcommercio? Una cosa seria la Confcommercio, no? Sì, certo. Cosa serissima, certo, la Confcommercio. Non è una roba così da stracciaculi, no? Cioè non è una roba, non è un'organizzazione così di un'organizzazione qualsiasi, no? La Confcommercio di Catanzaro, certo, un signore che non so manco come si chiama, un presidente della Confcommercio di Catanzaro, che riunisce in teoria i commercianti di Catanzaro, vorrebbe chiedere i danni al sottoscritto. Ma ti viene da ridere o no? Cioè, solo adesso, adesso sì, solo a me. Non per è fortuna. Sbagliato, sai? Ma vai, no, a fare il culo. Io, Davide, io no, voglio essere serio. Voglio essere serio su questa cosa qua. Allora, io vorrei ripetere al signore della Confcommercio di Catanzaro: bisogna essere seri, perché qui quando si parla di querele bisogna. No. Poi ti faccio sentire come rispondo con il remix. Rispondo con il remix fatto da altri dell'ormai famosa frase su Catanzaro. La mia frase su Catanzaro: ci sei mai stato a Catanzaro? Sei mai stato a Catanzaro? Però fermo un attimo. Questo signore sostiene che vuole coinvolgere altri operatori economici di Catanzaro per chiedere i danni al sottoscritto. Al sottoscritto i danni per aver espresso un'opinione sulla bruttezza di Catanzaro. Voglio dire al signore della Confcommercio di Catanzaro che non ho mai detto, anzi, spingo le persone ad andare in Calabria. Spingo, la Calabria è piena di posti stupendi, meravigliosi. Volete andare anche a Catanzaro città? Andate anche a Catanzaro città oltre che a Catanzaro Lido. Va benissimo. Posso esprimere una mia opinione su Catanzaro? Posso esprimere o no? Dove cazzo vai in tribunale? Cosa quereli? Quali danni? Se non hai capito l'oggetto della discussione, Confcommercio Catanzaro, anzi il capo, non la Confcommercio, il capo, perché voglio vedere i commercianti di Catanzaro che tempo hanno da perdere a portare una persona in tribunale e chiedere i danni con tutte le cose che ci sono da fare. Invito il presidente della Confcommercio, io la vedo benissimo, guarda, non vedo l'ora, lo facesse. Stai non vedo l'ora, distruggendo pezzo a pezzo questo paese. No, stai distruggendo questo signore pezzo qui per pezzo. Questo sì, che non so come si chiama, non mi ricordo bene perché ovviamente non lo si conosce, ma è normale che non si conosca il nome di questo signore. Dovrebbe pensare a fare qualcosa per i suoi associati, non pensare al sottoscritto che ha espresso un'opinione. Un'opinione, anzi, li porto in tribunale io se ci penso. Li voglio portare in tribunale perché spingono le persone a scrivermi, a minacciarmi su Facebook e su internet. E ti giuro, spingono con queste frasi le persone. Ho già ricevuto varie minacce da parte di pseudo catanzaresi. Sono queste persone che istigazione alla violenza. Li porto in tribunale io, altro che loro. Questi maledetti qui, maledetti, cioè quelli che vogliono, ovviamente quelli che vogliono minacciarmi. Questo signore qua li istiga in questo modo, capito? Istiga chiedendo i danni. A chi chiedi i danni? A chi chiedi i danni? A chi ho espresso un'opinione? La capisci la differenza tra un'opinione? Poi, ma che cazzo vuoi? Non posso dire che Catanzaro è brutta, Remix. No. Sei mai stato a Catanzaro? No. Catanzaro? No. Sei mai stato a Catanzaro? No. Catanzaro? Catanzaro? No. Sei mai stato a Catanzaro? No. Catanzaro? No. Sei mai stato a Catanzaro? No. Catanzaro? Sei mai stato a Catanzaro? Non voglio dire niente. Ma sei mai stato a Catanzaro? Io non voglio dire niente. Ma sei mai stato a Catanzaro? Catanzaro? Sei mai stato a Catanzaro? Sono Giuseppe Cruciani. Io resto in Italia. La corte, ma questo è andato in onda o no alla fine questa pubblicità? No, questo spot, meno male, perché mi sono dimenticato di chiedere a Barisoni di cancellare. Hai già cambiato idea, hai già cambiato opinione. Beh, è normale cambiare opinione, non è una cosa così strana cambiare opinione, eh? Cioè non è una cosa così bizzarra cambiare opinione. Eravamo a marzo, mi hanno costretto a fare questa roba, adesso col cazzo. Beh, se costretto. Vogliamo invitare noi turisti per il tuo a paese, no, per il tuo assolutamente paese, no. Per il tuo paese. Se vogliamo invitare i turisti a venire in Italia, che facciamo noi? Diciamo no al turismo all'estero, privilegiamo l'Italia? No, al contrario, ognuno vada dove cazzo vuole. Bissani incazzato, vai con Bissani incazzato, vai. Sti teatrini bisogna finirli, bisogna andare sul serio per poter capire una situazione. A settembre-ottobre ci troviamo tutti a Roma, al Parlamento. Dove? Questa gente sta morendo, non capite che sta morendo? Poi se la piglia con Migliore, che credo che sia passato con Renzi, Italia Viva, se non sbaglio. Sì, beh, da mo. Hai capito come funziona? Hai capito come funziona? O fate i giochetti, la carta vince e la carta perde? Cioè tutti questi 100 miliardi, 400 miliardi, non vediamo niente noi, non vediamo niente! È inutile che state dicendo le stupidaggini, per piacere! Dite la verità agli italiani che stanno morendo! È una vergogna quella che state facendo! Ma no, non credo di dover replicare ad una urlataccia, diciamo così. Io più che altro quello che dico è che noi abbiamo. Dicendo? No, vabbè, quale urlataccia? Bissani, siccome fare il governo. Siccome sì, ho capito qual è, diciamo, l'orientamento, vagamente ho capito qual è l'orientamento politico che recentemente è stato assunto da Bissani. Però la questione ma non fondamentale dico, è stupidaggini per piacere. Allora, faccia finita. No, non dico stupidaggini, io non offendo, ma non offendo. Diciamo, ci sono stati. Cerchiamo di rimanere tutti quanti calmi nei toni e nei contenuti. Ma che sta dicendo le stronzuidaggini? Bello che invita Bissani e poi dice: cerchiamo di rimanere calmi, la conduttrice, certo, nei toni e nei contenuti. Dai. Roberto, provincia di Salerno, iniziamo, vai. Roberto, allora Luciano, sì, dimmi. Volevo chiedere quando hai vomitato merda sulla Calabria, chi ti ha pagato? Ma vai a fare in culo, Roberto, posso ma dirti? Ma vai, chi ti ha pagato, ti dico, cazzo? Vai a fare in culo, te lo dico, te lo ripeto, te lo dico molto chiaramente, vai a fare in culo, tu e non so chi altro. Beh, ma chi mi ha pagato? Nessuno! Non ho vomitato odio su nessuno, imbecille! Chi ti ha pagato? Non ho vomitato odio su nessuno, cretino, imbecille, non ho vomitato odio su nessuno. Ma dillo, cazzo, dillo, di, ma cazzo, chi? Dillo. Nessuno mi ha pagato, poveraccio. Questo ha ragione a chiedere. Questo deve è un povero chiedere, demente chiedere. Della provincia di Salerno, Roberto. Non so chi ti ha pagato? Nessuno, ma che c'hai con sta litania qua? Chi ti ha pagato? Chi ti ha pagato? Chi ti ha pagato? Chiede, lo chiede, Sì, la, l'ufficio del turismo. Allora, sì, l'ufficio del l'ufficio del turismo della Sicilia mi ha pagato. Guarda, l'ufficio del turismo della Sicilia è alleato con l'ufficio del turismo della Sardegna per evitare che. Dillo chiaramente. Sì, lo dico chiaramente. L'ufficio del turismo della Sicilia, in combutta con quello della Sardegna, mi hanno spinto a fare un'esternazione contro Catanzaro in modo e che i turisti. Ma quanto ti hanno dato? Mi è centinaia di migliaia di euro. Guarda, è importante il turismo in questa fase. Dunque, dove si va è importante. Si cambiano gli equilibri, si cambia la sorte di un sacco di gente. Dunque, ufficio del turismo della Sicilia. Tu ti presti perché tu sei un picciotto. Sì. Un picciotto sarà tua sorella, picciotto. Io non sono il picciotto di nessuno. Tu sei manovalanza di questa. Tu sei un povero cretino, posso mano dire. Manovalanza, sì, manovalanza. Sì, manovalanza. Chi ti ha pagato? Ancora con chi va pagato? Chi ti ha pagato? Sta cambiando il clima. Ah, sta cambiando il clima. Tu hai il clima. Tu hai il clima. Fermi tutti. Fermi chi ti ha pagato? Logica, spazio, tempo. Module block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta La Zanzara. So che abbiamo tante telefonate. La Zanzara non può chiudere! Non può! Non può! Non può! La Zanzara non può chiudere! Non può! Non può! Non può! La Zanzara non può chiudere! Non può! Non può! Sono deluso e sto piangendo. Vieni. No. E sto piangendo. So che abbiamo tante telefonate. Eccolo. Forse dovremmo avere in video collegamento professor Meluzzi. Noi. Allora, Luciano, ti volevo chiedere quando hai vomitato merda sulla Calabria, chi ti ha pagato? Ma vai, chi ti ha pagato, cazzo? Dillo, sei il coglione! Dillo, chi ti ha pagato? E poi paga sempre Pantalone. Pagato. Cruciani, sì. C'hai ragione. Se dici che Udine fa schifo, noi ti invitiamo qua a bere e ce la ridiamo su. C'hai ragione, Cruciani, i napoletani e i catanzaresi sono la stessa cosa. È così, punto. Giuseppe, ieri quando ho sentito quella catanzarese che ti attaccava sul fatto che tu avessi detto che Catanzaro era una città brutta, una città di merda, eccetera, eccetera. Io sono calabrese, mi sono veramente rotto i coglioni di sentire i miei compaesani che si indignano quando sentono queste cose. Non capiscono un cazzo. Quando una cosa è oggettiva e basta. Longoni all'attacco, sei un grande. C'entra Longoni adesso. Non c'entra niente. Va bene ragazzi, Francesco da Padova, incredibile sta cosa di Catanzaro. Quanto mi hanno rotto i coglioni, tu devi capire. Aspetta un attimo, Francesco, tu devi capire. Sono... No, se io non. Se ci uno sono tutti gli elementi. Chi è? Ci sono tutti gli elementi, amico caro. Tutti gli elementi per fare cosa? Per fare ci sono tutti gli elementi per chiudere questa trasmissione. Nel senso che. Ma tutti ci sono tutti gli elementi per mandarti a fare in culo. Per mandarti a fare in culo. Per mandarti a fare in culo. Io guarda, sto analizzando con grande attenzione tutta la situazione. E mi convinco che ci sono tutti gli elementi, perché stai distruggendo questo paese in un momento di crisi enorme. Ho distrutto anche Catanzaro. Hai distrutto Catanzaro, la Confcommercio, Confindustria non ne parliamo, che appunto si tiene come dire un un distruttore in casa, è come avere un Trojan nel cellulare, capito? È come avere un nemico dentro sostanzialmente. E io penso che sia meglio anche dichiararlo subito. No, si chiude tutto, dichiarare? Ma no, si chiude ma subito no, tutto, no, beh, anzi da no. adesso sarebbe sì, un bel gesto da adesso, così da tu adesso, hai tempo sì, libero, adesso. Hai tutto esatto, il tempo per andare in trasmissione a farti i cazzi esattamente, tuoi. Esattamente, dai, esattamente, pagato comunque fino a luglio. Pagato, Francesco pagato, da Padova, comunque. Francesco dimmi Francesco. Dai, Crucia, che sto lavorando e c'è poco tempo. Sì, niente, sei calabrese, da Padova, ma sei, sì, sei calabrese, si sì, sente, sì, magari sì, anche sì, catanzarese, no? Magari anche no, sono catanzarese, sono 12 anni che vivo a Padova. Ma ragazzi, ma io amo i catanzaresi, ma forse non hai capito ancora. Potrà andare bene che sono padovano adesso. Ma sì, ma puoi fare quello che vuoi, padovano, catanzarese, io amo i catanzaresi, amo tutti indistintamente. Non me ne frega un cazzo di quello che pensi. E allora che vuoi, allora perché chiami? Allora perché chiami, coglione? Perché sarò contentissimo se sì, ti levano via anche le mutande, ma non mi levano un euro, non hai capito ancora, non mi levano un euro perché semplicemente libertà io, ma figuriamoci, guarda, i signori di Confcommercio di Catanzaro me la fanno, chiamatemi quello, non vedo una buona situazione Catanzaro, amico mio, Catanzaro non mi fa paura, non mi fa paura la Confcommercio di Catanzaro, ti posso dire, non fa paura nessuno, quando tu c'erai i soldi ne parli, non ti preoccupare, tu sei il super uomo. Ma non c'entra niente il superuomo, imbecille. Ma tu sei una situazione molto complessa. Ma tu sei un povero imbecille, basta, sei semplicemente un povero imbecille. Tu sei lui, hai capito? Chi sei? Chi? Sei Nietzsche, hai presente? L'hai mai letto il superuomo di Nietzsche? Sì, tu, no, Nietzsche, quella razza là sei, non ti preoccupare, prima o poi ti incastrano, vai tranquillo. Sì, bravo, sei contento. Per il momento, sei contento, ridi, eh. Certo che sono contento, ti tirano via anche le mutande, non mi portano via un cazzo, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Ed è quello che ti meriti, perché non ti rendi conto delle cose, sì, che dici. E che cosa avrei detto su Catanzaro? Aspetta un attimo, aspetta un attimo. Pronto? Falbo? Chi parla? Sono Cruciani, buonasera. Eccoci qua. Come va? Ma chi è? Sono Cruciani. Il famoso Cruciani. Il famoso Cruciani. Allora, io sì, voglio capire una cosa. Io con tutto il rispetto, io ho grande rispetto della Confcommercio, grandissimo rispetto. Grazie, grande grazie, rispetto grazie, della grazie, Confcommercio nazionale, della io Confcommercio. Io voglio sapere dove stai si firma. Un attimo, Confcommercio io nazionale. Dove si firma? Della Confcommercio locale di tutto, però voglio dire non una la cosa. La sento più. Sì, pronto, non la sento più. Siamo qui, la sento, la sento. Sì. La sento perfettamente. Allora, siamo qui in diretta su Radio 24. Allora, io voglio dire una sì, cosa. Ho grande rispetto della Confcommercio, dei vostri associati, di tutti questi. Però amico mio, non perda tempo in queste cose qui. Ho espresso un'opinione sulla bellezza o sulla bruttezza, non ho provocato nessun danno, non si preoccupi. Spingo la gente, i turisti, a venire a Catanzaro. Guardi, allora, andate a Catanzaro, andate a Catanzaro in vacanza, non è un problema. Andate allora invito a venire qua. No, ma io guardi, ma vengo di corsa, vengo di corsa, vengo di corsa. Siamo a braccia aperte. Però non minacci. Avrà modo di vedere, allora, di vedere quali bellezze ci sono nella nostra città. Scusi, però io posso dire una cosa, lei non può dire porto in tribunale Cruciani per dichiarazioni lesive sulla città di Catanzaro. Ho vogliamo detto che stavamo valutando un risarcimento dei danni. Mi sembra che il risarcimento dei danni sia una follia per un'opinione, perché io ho espresso un'opinione. Lo pensa lei. Ma certo io, che lo penso io. Le sto dicendo, venga sì, a Catanzaro, saremmo felici di farle visitare questa splendida città. Io sono già venuto, vengo volentieri, posso esprimere una mia assolutamente, posso esprimere venga una mia opinione, caro Fabio, sul fatto, cioè le opinioni sono opinioni, se io dico un posto è brutto, un posto è bello, sì, non è che ho detto alla gente evitate di andare lì, è una merda. No, lei ha ripetuto quasi all'infinito. Ma certo, ma è un tormento, che è un tormento, che è un tormentone al suo modo di ma è un tormentone la televisione, la radio, che ho capito, ma Dio sarà libero, no? Ma lei sarà funziona. Mi perdoni, lei come conduttore radiofonico funziona. Ma qual è l'offesa? Ma qual è l'offesa da portare? Grazie, ma dov'è l'offesa? Una sorta di lei stava denigrando un territorio. Ma assolutamente no, assolutamente. Posso dirle una cosa, amico della Confcommercio? Amico della aspetta. Amico della Confcommercio, scusi. Tanto di cappello alla sua condizione. Però scusi un attimo, adesso lei non faccia tanto, perché il punto fondamentale, io ho letto che lei dice ci sono stati dei danni, stiamo valutando eccetera eccetera, stiamo valutando se ci sono gli estremi per richiedere un risarcimento, ma quale risarcimento dei danni, di cosa sta dicendo un'altra cosa adesso, no, io ho detto amico della Confcommercio, mi scusi, grazie, amico grazie, la ringrazio. ringrazio molto. Io non ho lei dovrebbe sapere, visto che è amico di Confcommercio, stanno vivendo un periodo drammatico, non solo perché c'è il Covid, ma soprattutto alle nostre latitudini. Non ho detto Luciani, venga qui, ma io vengo, ma lei non dica stupidaggini come le cose dei tribunali di risarcimento. Scusi, ragazzi, non vi sento. Ma io sento benissimo. Senta Parenzo. Scusi, sono Parenzo, buonasera, amico caro della Confcommercio. Buonasera. Grazie. Allora, primariamente mi consenta semplicemente di dirle grazie. Grazie. Non ho capito niente. Perché... Mi perdoni, sono in auto. Ho capito, ma se lo capisco. Primariamente mi permetta di dirle semplicemente grazie. Grazie perché lei è il sassolino che è stato messo nella macchina della zanzara e rischia, grazie a questa cosa, di far finire tutto. Quindi grazie. Non ho capito, lei è il sassolino che è andato a finire in quale macchina? Non ho capito. Sì, nella macchina della zanzara. Sta bloccando l'ingranaggio di questa perversa e maledetta trasmissione. Le dico dal cuore. Grazie. Aggiungo che però funziona. No, non lo dico. Dica, no, non deve dire Confcommercio, lei non deve dire che funziona, distrugge tutto. Lei non può giustamente fare causa e ha tutta. Io le metto a disposizione tutti gli avvocati di A Buon Diritto di Manconi per fare causa a Cruciani. Gli metto a disposizione io. Ma che Catanzaro è Catanzaro? Ma quale Catanzaro? Qui si tratta di far chiudere questa trasmissione. Quale è venire a Catanzaro? Ma io non vengo a Catanzaro, ma neanche. Ma manco morto vengo a Catanzaro, ma figuriamoci. Però faccio uso. Faccio uso questa sua giusta e ottima idea di far chiudere la trasmissione, di querelare Cruciani, e io le offro tutta la tutela legale del caso, perché le metto a disposizione gratis tutti i nostri avvocati, tutti gratis. Andate a fare il culo. Allora io svengo ufficialmente a Catanzaro pur ribadendo le mie idee su Catanzaro, chiaro? E quali sono queste idee? Che non ho capito. Che è brutta! Che la città, ma non il mare! È brutta! È brutta come una. È orribile! Comunque, ragazzi, venite qui a Catanzaro, ho tante cose meravigliose da vedere. A presto, Fabio, un abbraccio. Grazie, caro. Dov'è quell'altro cretino, Francesco? Dov'è quell'altro? Dov'è ancora? Povero imbecille, tieni, quali mutande? Che non mi tolgono nulla, cretino, imbecille! Sto cretino qua, menagramo d'un menagramo, ciao amico mio, ciao! A casa! Tu sei peggio di me che chiami, a casa! Ma come stai? Vai a casa! L'ultima cosa, chiedi al tuo amico Sgarbi se Catanzaro fa schifo. Cretino. Ma non posso esprimere la mia idea su Catanzaro, non ho capito. Dove per forza dire che è bella come te? Tu non ci hai mai avuto un'idea in tutta la tua vita. Te lo lascio dire, che me ne frega. Ti lascio dire quello che vuoi. Ciao, vai a casa. Vai a casetta. Ciao. Prenditela in quel posto, ciao. Fineco, la banca numero uno in Italia nel trading, vi presenta la zanzara. Pronto? Guarda, ma vattene a piangule, guarda, a te grindri dici, tu vuoi clandestino. C'è un po' di rabbia, però. Ma quale rabbia? Che cazzo di rabbia mi dica? Ma sulla Santanchè? Si ricorda cosa ha detto? Certo. Ecco, che lo vuole ripetere? Perché ha detto che meglio, piuttosto che andare con lei, farei un buco sul cuscino. Ma sulla Santanchè? Piuttosto che andare con lei, farei un buco sul cuscino. Ma sulla Santanchè? Una vergogna! Una vergogna! E lei abbaia sempre con quella gente lì. Ma non è vergogna! i mariti devono capire che un cazzo di gomma può assolutamente salvare il matrimonio. E questo strumento deve diventare come una cravatta, un foulard, una collanina, un braccialetto, un piercing. Ne parleremo stasera. Ecco Luciani, io giocavo con le bambole da bambino, adesso scopo come un riccio, non dire cazzate, va. Crugiani, non dire stronzate, mio fratello da piccolo giocava con le bambole e da adolescente in poi se ne è trombate di donne. Medita, caro Giuseppe, medita. Lei si sta sbagliando. Forse questi signori qui non hanno capito che io non ho mai detto che se uno gioca con le bambole, se un bambino gioca con le bambole quando è diciamo fino a 10 anni o non so a che età eccetera, poi non tromba successivamente, non ho mai detto questo. Ho detto che nella normalità delle situazioni, poi ognuno fa quello che vuole, se uno deve regalare qualcosa a un maschio, a un maschietto, regala, non regala le bambole. Ma nelle situazioni di normale, poi non ho detto che è anormale giocare con la, normalmente un maschio, un bimbo non gioca con le bambole da piccolo. Ma non dico una cosa così strana, non lo dico contro gli omosessuali, ma sì, vabbè, ma non c'entra? Ho niente, lo dico perché è così la storia. Poi uno può diventare il più grande chiavatore del mondo dopo aver giocato con le bambole da piccolo, non c'è dubbio. Cosa c'entra? La roba da pazzi, guarda, incredibile. Luigi da Catania, vai, Luigi da Catania. Quindi ancora non ti hanno buttato fuori, coglione. Ancora, questo qua, Luigi. Questo Luigi non c'è un bel clima. Non c'è un bel clima. Come stai parlando? Sto parlando col telefono, deve essere tutto spento. No, lì, tutto ma lì. Si sente, imbecille, si sente un piccolo rumore, cretino di un cretino. No, allontanalo. Sì, allontana un attimo il telefono. Allontana il telefono, se no non si sente. Se no ti metto giù. Per cui allontana il telefono dalla bocca. Io voce, mi sente bene così, Simoneto. Vabbè, dimmi, imbecille, dimmi. Io le ma tu, ma se tu sei scemo. Vabbè. Ma come, minchia, ma tu sei scemo. Ora, per esempio, l'OMS è una minchiata, coglione. Sono morti 400 medici, ti faccio sapere, 400 ma medici. Che c'entra, non scusa. Gente come te, laureata. Ma cosa in c'entra? In Albania, tu te laureasti in Albania. Togli via voce, togli via voce, cretino. Noi in Albania. Vai a fare in culo. Marco, richiamate questo cretino. Marco da Treviso, Marco. Vai. Eccolo. Dimmi. Ciao Bruciani. Volevo semplicemente mandare a fare in culo quelle persone che hanno attaccato Morelli, sì, che ha semplicemente fatto un elogio verso la donna. Sì, assolutamente. E invece chi non ha attaccato la Leotta, che ha detto quella cazzata a Sanremo. Roba vecchia di Sanremo, stai sì, collegando delle vabbè, cose, non mi ricordo nemmeno quello che ha detto la Leotta a Sanremo. Era andato in onda dei mesi sì, fa, dai, noioso, Marco da Treviso, noioso, noioso. È una cosa collegata perché si ma parla non c'è nessun collegamento, non c'è attualità, non c'è tensione di attualità. Ma vai a cagare. Si parla sempre di donne, perché se lo dice una donna, allora... Vabbè, ma Marco, non ce ne frega un cazzo, Luca da Milano, dai, Luca da Milano, dimmi Luca, dimmi. Si sente perché c'ho le cuffie. Non si sente, con le cuffie non si può stare, cretino. Luca, dimmi. Allora, volevo... Non c'hai, togli il viva voce, togli le cuffie. Sto guidando, e allora non chiamare e non rompere i coglioni, Daniele da Brescia. Non stavo guidando prima. Si sente, vai, dimmi. L'unica trasmissione che tratta male chi chiama. Vorrei dire a quell'asino di Parenzo che prima ha puntualizzato che Zangrillo non è un buonasera e grazie per aver chiamato intanto. Che lui grazie molto. Ha specificato di parlare a nome del San Raffaele e ha citato in primis ma il chi? Virologo ma chi? Ma chi? Zangrillo. Ma non c'ha bisogno Zangrillo di difensori, di avvocati, Zangrillo, non ti preoccupare. Ma sei il manutendolo di Zangrillo. Come Parenzo. Ma che cosa? Che guarda che ci sono scienziati uguali e contrari che dicono esattamente la cosa opposta. Allora io non voglio fare un derby tra virologi e Zangrillo ma non è un virologo. Quindi, se a te piace Zangrillo perché dice che siamo tutti liberi. Tu no, no, ma scusami. Genio della lampada, se a te piace Zangrillo e piace anche a me l'idea che vada tutto bene, su cui tutti e sono che non succede, scusami, io sono felice se... ma sulla base di che cosa? Perché gli altri scienziati direbbero cose non sensate? Perché gli altri? Perché Galli direbbe cose non sensate? Ciao Luca, ciao Luca. Vediamo se Luigi da Catania è pronto. Luigi? Sono pronto. Dimmi. Di parlare piano. Pure Luigi. No, di parlare piano, di non parlare attaccato al microfono, altrimenti si sente un... Sì. Allora, vedi quello che ha telefonato ora, tutti quanti negazionisti, non c'è niente. Ma chi ha detto però, che non c'è? Ma tu che non hai messo con tutte queste cose. Ma che minchia dici? Sono morti 400 medici, 35.000 persone allora? In Italia. E che c'entra? Non allora, niente, ma vai a fare Gabriele da Mantova, dai, Gabriele. Male, si sente male. Dimmi, perfettamente. Ok, perfetto. Allora, semplicemente io volevo dire una cosa a Parenzo. Buonasera, Parenzo. Eccoci qua. Buonasera, caro. Dimmi. Tra l'altro sono anche conterraneo del buon Mauro, ma questo non ci accomuna per fortuna. Questo non depone a suo Gabriele, favore. Mi stai facendo venire i coglioni ottagonali già. Dopo 30 secondi già mi sono rotti i coglioni. Figurati un po'. Ascolta un attimo. Secondo te, Parenzo, se mi mettiamo caso, fare il classicista è anche figo, no? Magari uno può dire antologia. Ti giuro, ti do 15 secondi. No, ti do altri 15 secondi, solo, li sto calcolando. Un solo. 3, 1, se uno parla 2, di Ponatte, 3, di Archilo, che parla di figa, 5, di piedi, 6, di sesso anale, 6, di incesti, 6, di pompini dalla mattina alla sera. Uno non è che adesso Parenzo mi può venire qua e vai avanti e non mi calcoli queste robe. Non puoi fare a chi figlio, a chi figliastro, o no? Demetrio da Reggio Calabria, mi ha rotto il cazzo. Demetrio da Reggio Calabria. Non ho capito. Non lo so. Vuole dire che i classici, i grandi autori parlano di sesso e dunque tu dovresti parlare. Quello certo, ma lo fanno in modo elegante però loro. Demetrio da Reggio Calabria. Parliamo della Calabria. Dimmi. Forza Cruciani, sei un grande. Devi continuare così. Mi dispiace del fatto Tu però che... parli da Reggio Calabria, diciamo, voi lì in Calabria vi massacrate, diciamo, a livello di città. Siamo orgogliosi del cazzo, non capiamo niente. Certe volte ci attacchiamo alle minchiate e non guardiamo veramente la realtà. Tu sei stato un grande. Devo dire che sono rimasto un po' deluso dell'intervento che hai avuto con il presidente della Confcommercio. Che volevo fare? Più battagliero. Più battagliero, ma che devo dire? Perché il presidente della Confcommercio è questo. Ma gli ho detto di non perdere tempo, di non perdere tempo con queste minchiate. Dai. Se noi analizziamo quello che sta facendo il presidente della Confcommercio, ma chi se ne frega? L'espressione della Calabria, della bruttezza della Calabria. Invece di impegnarsi quest'uomo a rilanciare l'economia in Calabria, si preoccupa di Cruciani, di fare. Di intervenire su Cruciani quando abbiamo dei problemi enormi. Demetrio, io sono ovviamente d'accordo con te, io l'ho detto chiaramente, poi mi ha invitato a Reggio Calabria, non è che potevo mandarlo a fare in culo semplicemente dopo un invito a Reggio Calabria. Ma io l'ho già mandato a fare in culo, nel senso sto dicendo ci deve dire che quello che sta facendo per Catanzaro, per rilanciare il commercio, ragazzi, la questione è molto semplice. Cosa sta facendo, io non gli posso dire tu non fai un cazzo per Catanzaro, che ne so io che cosa sta facendo. No, il punto fondamentale è un altro punto fondamentale, è che uno è libero di dire che Catanzaro è brutta. Secondo loro è bella, chi se ne frega, è un'opinione. Bene EasyJet a dire che non ci sono città simbolo sulla Calabria. Ha fatto un favore alla Calabria, un favore, perché si parla di Calabria da 10 giorni, chiaro? Ciao Demetrio, ciao. Aspetta, un'ultima cosa, Parenzo. Gli volevo dire, Parenzo, con il tuo atteggiamento, tu ti senti quel moralista, quella persona saggia, intelligente, no? Che interviene, sei un grande, dipende. Cerchi di nascondere noi abbiamo bisogno di mille cruciani per, noi abbiamo bisogno di mille cruciani per far diventare bella la Calabria oltre alle bellezze se naturali che ha. Siete non abbiamo contenti bisogno voi? Di Parenzo che nasconde, sostituite, che cerca di fare il moralista, sostituite i bronzi di Riace Parenzo con cruciani, essere... non c'è nessun problema. No Parenzo, tu devi essere una persona obiettiva, perché non puoi dire che Catanzaro è bella. E se lo dici prendi per il culo i catanzaresi e prendi per il culo i calabresi. Ma io non ho mai sostenuto che Catanzaro dire, è bella, però. Non lo devi, e lo devi, e perché non lo ripeti? Ma non cosa devo dire? Ma fatemi dire quello che mi pare a me, no? Ma non mi sembra una battaglia determinante quella contro Catanzaro, francamente. Che battaglia, chi fa la battaglia? Stiamo facendo del bene a ai catanzaresi. E tu devi essere con i catanzaresi, devi dire facessero che fuori, è brutta, facessero è fuori, facessero fuori un po' di bruttura che hanno costruito nel corso del tempo a Catanzaro invece di rompermi i coglioni, dai. Ciao, ciao, ciao, dammi, ciao, ciao. La Zanzara. Via! Da questo canale. Comunque finire di scopare e pensare alla Zanzara, non lo so, mi avete rovinato. Luca da Roma, vai Luca, vai, dimmi Luca. Dimmi. Eccomi, ciao Crucio. Dimmi. Io dico che mi sono da calabrese, che ragazzi, ma che cazzo ci avete stasera con le linee telefoniche, porca la gran puttana. Chiama bene, no? Mettiti bene, fermati. Aspetta, e dai, su, porca puttana. Aspetta. No, togli tutto. Ma certo che ti sento, porca puttana, dai. Ma no, mi incazzo, non si. No, io lo dico a te, non mi rompere i coglioni. Dai. Io te l'appoggio da calabrese, ti dico basta con sto politicamente corretto, la Calabria è bellissima, ma Catanzaro fa cacare. Vabbè, però scusa, questo è, però il problema è il classico campanilismo italiano. Di dove sei? Di dove sei tu? Di dove sei? Io sono di Cosenza. Beh, amico mio, però è chiaro che lì c'è conflitto. No, ma non forza. È, ma mi devi, a me non me ne frega niente. Ma è come della, Pisa, no, però, aspetta, ma è come però, Pisa Livorno, dai, è come Pisa Livorno. Però aspetta, Luca sta dicendo, nonostante il fatto che sia cosentino, io analizzo la cosa, diciamo, da un punto di vista oggettivo. Ma non c'entra niente, ma non me ne frega niente. Ma quale oggettivo? È come Pisa Livorno, dai. Degli stessi catanzari. Certo, è orrendo. Anche perché pure Cosenza, no? Anche Cosenza non brilla, diciamo, dal punto di vista. Se dici questo di Cosenza, ecco l'altro fronte, si apre un altro fronte. No, ho detto che non voglio fare conflitto Cosenza Catanzaro, quindi non me ne frega niente. Poi in un'altra sessione magari parliamo di Cosenza che non ha nulla a che vedere con Catanzaro. Allora? Comunque Catanzaro ha detto agli stessi catanzaresi, evidentemente stanno chiamando solo quei 4-5 catanzaresi. No, hanno chiamato pure Cosentini la settimana scorsa, non ti preoccupare. No, dico quelli che difendono Catanzaro. Vabbè, allora? Saranno solo che danzare. Per il resto è orrenda. Se uno deve andare in Calabria, andasse a vedere altri posti. No. Questo no, uno può andare anche a Catanzaro Lido, Catanzaro, fare quello che vuole. Ognuno è libero di fare quello che vuole. Però uno può dire, chiaramente può dire in maniera chiara, senza essere... non fare marcia indietro, Cruciani. Io. A testa bassa, avanti tutta. Chi, cosa? E che ho detto di non andare a Catanzaro? Io l'ho mai detto, l'ho mai sostenuto. Stai facendo marcia indietro marcia indietro. Stai abbassando la cresta perché ti hanno minacciato. Ma quale minacciato? L'hai sentito quello che è un agnellino? Ma che cazzo dici? Io non ho mai detto di stai non andare a Catanzaro. Tono. Ah, vai a cagare, Roberto da Venezia. Stai cambiando. Roberto da Venezia, forza. Buonasera Davide, buonasera Giuseppe. Buonasera, amico caro, forza. Allora, molto velocemente, io dico a tutti quanti gli amici calabri di Catanzaro di star tranquilli che qua in Veneto abbiamo un esempio di città che fa ancora più cagare di Catanzaro, secondo me, anche se non l'ho mai vista. E qual è? Catanzaro, Rovigo. Porta tu dici Rovigo. Questo immaginavo, perché anche Davide, questo è una cosa... Sì, no, ma guarda, molti veneti mi hanno detto in questi giorni che ragazzi, non parlare così di Catanzaro, che anche noi abbiamo la nostra bestia nera, diciamo. La nostra... Allora, tutti i rovigotti per Rovigo. Posso dire una cosa? Media, puttana, Non ho capito, non scusa. Cerca, allora, di, cerca di farti sentire al telefono, però, Roberto. Mettiti bene, cazzo. Eccomi, dai. Qua, mi senti meglio, Giuseppe? Sì, dimmi. Allora, stavo dicendo che d'estate ci sono le zanzare che manco. Vabbè, quello ovunque, però pure a Milano, che cazzo vuol dire? I coglioni, eh. E poi? E poi d'estate c'è la nebbia, che porca miseria. Inverno, che manco. Vabbè, da qua, ciao, Roberto, ciao, hai rotto i coglioni, ciao. Allora, ragazzi, non so se ricordate una giornalista che si chiama Nausica della Valle. Beh, Nausica della Valle, che una volta qui ha detto che non sono più lesbica, grazie a Gesù, addio a Gesù, e che l'omosessualità è peccato. L'altro giorno voleva pregare per Luxuria. Sentiamo un po' se prega per me, chiamiamola, dai. Pronto? Pronto, Nausica? Non ce la posso fare adesso, guarda, stai in aeroporto. No, ma ti voglio dire. Non ce la posso fare. No, lo so, che non ce la puoi fare. Vuoi pregare per me un attimo? Prega per me. Sì. Prega. Sì. In testa, sai che sei in testa. Te. No, ma una volta. Uguale, ma prega per uguale. i miei peccati, voglio ma, che tu. Assolutamente volentieri prego per te. Ma perché vuoi? Perché vuoi? Ti ravveda. Perché quando sei lontano da Dio, ma veramente. Sì. Non hai proprio il senso. La preghiera viene presa in giro. Cioè, ma chi ti prega? Tu devi ringraziare Dio che c'è qualcuno che prega per te. Ma tu dici, cioè, è importante. Dico, per esempio, io sono. A me piace molto che fare l'amore con non più persone. Prende in giro. No, ma io ho uno che piace. Ma uno che piace fare l'amore con molte persone. Uno deve pregare. Ha bisogno che qualcuno preghi per lui. Se a me piace fare l'amore con molte persone. Guarda, ascolta. No, ma io ti chiedo, c'è veramente bisogno o no? Sì, c'è bisogno per tutti. Sapete, la mentalità talmente proprio dietro. Cosa? No, alla fine neanche la una preghiera, capito? Ma uno perché? Ma se uno non ci crede, meglio che te benedicono che te maledicono. Secondo te, uno che vuole fare l'amore con più persone ha bisogno di qualcuno che qualcuno preghi per lui? Ho bisogno di essere salvato in qualche modo? Tutti abbiamo bisogno. Perché guarda, ti posso dire una cosa: sì. L'unico, sì. E sottolineo, l'unico che ti dà la salvezza è Gesù Cristo il Signore, quello che è morto sulla croce pure per te. Secondo lei, e se uno è ateo e non ci crede? E se uno non ci crede? Né Madonna, né Padre Pio, non c'è niente. Come se uno è buddista? È e se uno è buddista? Per tutti noi è Gesù Cristo. Ma se uno è buddista? L'unico. Se uno crede e in Buddha? Ha fatto la scelta. Ricordati, la partita ce la giochiamo su sta terra. Non è Dio che ti manda all'inferno o in paradiso. Scegliamo noi con chi stare. Se scegli Dio, starai con Dio. Se non lo scegli, hai già scelto, vuol dire che stai col nemico. E come col nemico? Come col nemico? Come col nemico? Se uno vale nemico. Ma se uno non sta con Dio, sta con Satana, mo? Sai perché? Perché questa terra, questo mondo è governato da Satana. E sai perché? E perché? Perché Adamo ed Emma, quando hanno disubbidito da Dio, tutte le eredità, e questo sta in genere. E come si manifesta sto Satana? Come si manifesta sto Satana? Ma tu non riesci a riconoscere il bene e il male? Fammi capire. Non ho capito. Uno sta oppure stai con gli occhi o uno sta con Satana, o uno sta con Dio, oppure sta con Satana. O sta con Dio o sta con Satana. I regni sono due, un regno delle tenebre e un regno dei cieli, non può stare a mezzo. Non puoi dire io sto da solo. No, non stai da solo, sai perché? Perché questa terra la governa Satana. E quindi se tu non scegli Dio, già scelto conquistare, quindi se hai scelto Satana vuol dire che Satana si porta all'inferno. Satana è il male assoluto, segnatelo e mettilo con la musichetta dimmi. Sotto, sei male a Satana. Sei male a Satana. Segnatelo. Proprio decedo le cose. Dunque mi dirai una cosa. Io sono quello che abita là. Però scusami un attimo, dunque se tu sei voi lo nominate il bene e il male. Ma quando tu eri lesbica? La domanda è questa: quando eri lesbica, evidentemente eri in mano a Satana. Questo per no, forza. No, eri in mano alla fidanzata, che siamo, è Satana, rimando alla fidanzata. Parenzo sì. Per forza. No, ma senza voler dire delle porcherie, lei quando era fidanzata non era in mano a Satana, era in mano alla sua fidanzata, eravate due ragazzi che si amavano anche a Satana però, anche a Satana. Quale Satana? Lo vedi. Evidentemente sì, lei pensa che era in mano pure a Satana. Era Satana che governava le sue relazioni. Satana. Dopo, con Dio, ha scoperto che quella roba lì è una roba. Che governa invece la mia vita, il Signore. E dunque, col Signore non ci si può leccare. Sì, dunque, col Signore non ci si può leccare la figa. Questa è la sostanza dei fatti. Diciamo, ma la chi se ne importa? Ma veramente? Ho capito, ma se uno gli piace quello, è in mano a Satana. Se uno gli piace leccare la figa, è in mano a Satana. Ma a me mi è passato tutto. Siamo arrivati al sesto anno che sono convertito. Sì, ma io voglio capire perché se due donne, perché se due donne se la leccano sono in mano a Satana? Io questo voglio capire. Vabbè, ma che ti venga a spiegare, Madonna? No, ma è chiaro, ma no, ma io la voglio mettere, la voglio mettere su un piano pratico. Se due donne se la leccano, se due donne se la leccano, perché devono essere per forza in mano a Satana? Ma secondo... facessero quello che vogliono. Ma ognuno perché sceglie la propria perché... vita. Ascolta. Sì, quello è chiaro, se tu quello scegli è chiaro. Di rimanere bene, se tu scegli di rimanere così, entrerai a tormentare tutti i giorni. Però sei in mano a Satana. Però sei però sei in mano a Satana. Tu anche se gli etero, non solo le lesbiche, e che fanno hanno perso al di fuori del matrimonio, non è pure la legge di pure Dio. Questo, siccome pure questo. Noi siamo nati, che tutto è tutto a posto, tutto, volevo se bene, andiamo qua, andiamo che non là, si può scopare, non si può più scopare se non fuori da, se non se non sposati. Normale. Se non si può scopare se non sposati, la allora. La creata Dio. E dunque? È Satana che l'ha fasciata, perché dove sta Satana? C'è sta divorzio, c'è rabbia, c'è litigio, c'è separazione, c'è ubriachezza, c'è latrocinio, c'è tutto questo. C'è non tutto mi questo. Viene a dire che verrà Dio tutta questa roba. Dunque, ma dunque si può dunque si può scopare solamente si può scopare solo se uno è sposato. Se vuoi far venire un sacco di demoni, fa come te pare, oh. Cioè, non demoni. Ho capito perché dovrebbero arrivare i demoni? Eh sì, allora comincio a studiarsi pure la demonologia, così vedi. Beh, non ho capito, se tu scopi fuori dal matrimonio arrivano i demoni? È fornicazione, si chiama fornicazione. Sai che è la fornicazione? La fornicazione. Ma come ti è successo? Ma come ti è successo? Ma come ti è successo? Ma come ti è successo? Ma perché due donne che se la leccano? Perché se due donne se la leccano per forza ci deve essere di mezzo Satana? Perché? Mi spieghi perché? Perché due donne? Dimmi due donne, due uomini, due uomini, uguale, uguale. Ascolta, dov'è il sesso promiscuo? C'è Dio o c'è Satana? Rispondi. Non lo so, non c'è nessuno dei due! Non c'è nessuno dei due dove c'è il sesso promiscuo. Ma scusa, risponde. Ma quelli che fanno le gangbang, quelli che fanno le orge, che sono? Ah, vabbè, là. Ah, guarda, ci sono gli angioletti attorno. Puoi immaginare? Ti prego, lo capisci da solo. C'è Satana di mezzo, c'è Satana. Sicuramente. Dove c'è perversione. C'è Satana. Sì, vabbè. C'è il male, tesoro. Io pregherò per te. Prega certo per me. Prego per te. Grazie, ma io, ciao. Ma assolutamente sì. Grazie, ciao. Non so ciao. La zanzara. Lei si sta sbagliando. Allora Cruciani, ognuno di noi ha uno scopo nella vita, no? Allora, il tuo non è quello di andare a pranzo, di non lavarti i capelli, di pisciare nel lavandino. No, il tuo scopo è quello di condurre questa fottutissima trasmissione. Ora, io mantengo la calma, eh. Ora, se tu vuoi farti aumentare lo stipendio da 400.000 euro l'anno a 600-800.000, farti upgradare la qualifica da inviato speciale a inviato di guerra, tanto sempre in quel buco di culo di via Monterosa stai, fallo pure, hai tutto il tempo. E poi tu con il tuo compare di merende a settembre ti ripresenti, con i tuoi occhiali da sole, con i tuoi anelli, ti presenti alle 18.34, 18.35, barisoni permettendo, e ricominci. Perché questo è lo scopo della tua vita, presentare questa fottutissima trasmissione, va bene? Fallo e nessuno si farà male, grazie. È incredibile come la gente in qualche modo ti voglia imporre quello che devi fare. Ma che cazzo volete? Minacce, minacce. Ma quali minacce cosa? Di che cosa? Quali minacce? Comunque, tu ripensa... farai la fine del romanzo Misery non deve morire, del grande Stephen King, che forse hai letto, dove c'è questa lettrice che sostanzialmente lega a letto lo scrittore, lo tortura, perché vuole che scriva un altro romanzo. Quindi tu verrai legato a un letto, preso in ostaggio e obbligato a condurre la trasmissione. Comunque stavo ripensando al discorso di Gianni, no? Il candidato del PD in Toscana, della sinistra in Toscana, diciamo. Sì. E ancora una volta sei incredibile, tu sei incredibile, troppo morbido, troppo morbido. Cioè, se lo avesse fatto uno di destra, lo ripeto per l'ennesima volta, lo avesse fatto uno di destra, lo avreste massacrato, avreste messo i manifesti in giro, i manifesti in giro, il guinzaglio sessista eccetera. Adesso sì, ha sbagliato TikTok, ma in fin dei conti voleva dire il discorso politico, perché io non mi scandalizzo, per me va benissimo tutto il guinzaglio, anzi lo ripeto per la centesima volta questa sera, mi evoca anche un'immagine bellissima, il guinzaglio. No, ma guinzaglio, è una brutta immagine, il guinzaglio, ma non bellissimo, ma il guinzaglio, non per il femminismo, il sessismo, questa roba qua è una brutta immagine. Ti annuncio, felice, certo, ti annuncio una cosa, tra le 20 e 15 è un grande personaggio che ci spiegherà per l'ennesima volta un'altra pratica sessuale, caro Davide. Ah, un'altra pratica. Paoletta Saulimo. Sì, sì, Paolo Saulimo. Sta Saulino. Paoletta Saulino. Saulino. E come si tratta il pallame, cioè dire i coglioni dell'uomo. A me poi quella mi sta particolarmente sui coglioni per il modo che ha di parlare. Proprio mi sta proprio, esatto. Proprio sui quel coglioni, modo lì, sui coglioni. Sì, su, io li chiamo così, sui, quando devo dire una parolaccia la dico e non faccio quei giri di parole. Ma tu le idioti. Palle le chiami, gli chiami coglioni e basta, cioè sì, le palle lei, non ti va mi bene. Mi sta particolarmente, sì, il pallame, il culo, tutte quelle stupidaggini. Lei è semplicemente una sporcacciona. Ma che sporcacciona? E che cos'è? E che cos'è? Dunque, state facendo il pompiname, le regole del pompiname io già ve le ho esplicitate abbastanza. Sì. Passate al pallame e voi indagate, perché c'è una cosa di ricerca, un indagamento, un'indagazione. Indagazione. Sposti il pallame, così lo sposti proprio, il pallame si sposta, raga. E cominci a fare il leccaggio al principio del pallame, quindi all'attaccatura pallica. Beh. Ok? Beh, amico quello mio. Che tu cominci a fare è un leccaggio all'attaccatura pallica. Ma non vi perdete niente, la grande spiegazione tra qualche minuto, è la grandissima spiegazione ma nei dettagli carità, su come si deve carità. Svolgere questa pratica erotica, importantissima, importantissima, fondamentale, anche tu l'avrai fatto, dai, anche tu te lo sarei fatto praticare prima, sai, magari non l'hai fatto perché non sei, non sei stai, gay, non sei omosex. Io tendo a non aspetta, parlare aspetta, di quello ancora, che avviene c'è ancora, sotto le coperte. C'è ancora. L'attaccatura pallica è tra l'attaccatura del pallame, il pistillo... È un triangolo delle Bermuda. È un triangolo delle Bermuda. Questa è l'attaccatura pallica è il triangolo delle Bermuda che congiunge il pallame, il pistillo e la Mesopotamia. Ok? È semplicemente un genio, fra poco ci spiegherà tutto. Intanto, oh, ritroviamo il signor Silvano. Signor Silvano da Bergamo. Silvano da Bergamo, te lo ricordi? Te lo ricordi appena sentirai la voce, te lo ricordi? Dimmi, Silvano. Oh, buonasera, buonasera. Niente, niente, niente. Sono contento di sentirvi. Dimmi, dimmi tutto, Silvano. Ho già sentito che c'è anche quel testa di suino di Parenzo. Pensavo che almeno ci evitava l'estate. Presente, presente, presente, presente. Ecco, presente. Pronti, pronti, ecco, no, niente, pronti. Io volevo solo fare un mi fa piacere che lei sia ancora in vita. Mi fa piacere che lei sia ancora in vita, quindi è sono viva. In vita, sono in vita nonostante ho passato un brutto mi momento, ma sono in vita. Ma questo te la sta tirando, mandalo molto. A fare in culo, no, Silvano. Mi dispiace no, molto, ma non c'è problema, molto. Ci vada solo a fare in culo tutti i giorni, non c'è bisogno di mandarlo. Non ho detto nulla, ho detto mi fa piacere di sentirla ancora in vita. Era un mezzo augurio, mi fa piacere, lo dicevi in alcun modo. Lo so. Ma in alcun modo, ma non mi permetterei mai. Vedrai che qualche giorno avrò il piacere di trovarlo. Ma dove? Scusate, ma secondo voi io posso giro. Trattare male? Ma no, ma scusate, ma di cosa? Io voglio dirvi, ma secondo voi posso io trattare male un ascoltatore? Ma no? Vai a fare il quindi culo, ho vai. Augurato lunga vita. Ma li consideri delle merde, li consideri? Ce li consideri? Sì, questo è corretto. Questo è corretto. Questo è corretto. Ragionano sì, con un Khmer sì, rosso, capito? Effettivamente un Khmer rosso, sì, un Khmer rosso. Dimmi tutto, Silvano. Niente, volevo solo dire lì al nostro amico Parenzo che lui difende tanto i Ron. Sì, io trovo Ron, scandaloso sì, Ron è Ron un cantante ma comunque che vabbè. Abbiano il cantante Ron che abbiano processato la maestra quella lì perché aveva rapporti con l'allievo. Vabbè, questo che c'entra, questo è un altro discorso. Mi fosse capitato a me, pensi che andavo a denunciare. Io invece. Cioè, tu dici se ti fosse capitato di trombare. Come era nell'olio bollente? Il Rom lì, quel cavolo che lei che ha violentato quella bambina di 12 anni. Invece mi risulta che questo schifoso maiale. Sì. È ancora a piede libero, è ancora. Ma non in lo giro. So adesso, non so bene una sì, cosa. Sì, lo so io perché ho sentito. Cosa? Il nostro amico lì di Mondragone, dici. No, no, quello lì che fa la trasmissione che ce l'ha con Parenzo. Sì, chi ce l'ha? Chi ce l'ha? quello che dice Donato. Ah, Mario Giordano. Giordano, certo. Parenzo dovrebbe leccare dove cammina Mario Giordano. Capito? Io tendo a non leccare nulla, caro amico. Se lei vuole leccare dove cammina, Giordano, cioè, è il benvenuto. È il benvenuto del leccaggio di Giordano. Se non leccavi, non eri a Radio 24. Scusami, Silvano, perché ce l'hai tanto con i signori Rom? Tu che cosa ti hanno? Ce l'ho perché è una cosa scandalosa che questo ha letteralmente violentato una bambina di 12 anni. Beh, certo, questo vabbè, questo sì che c'è. E sia in giro, tuttora libero. Ma tu in generale processare la maestra, il ragazzo, il marito della maestra, ma è ora di finirla. Non c'entra niente però, sono cose niente. Sono due storie che non c'entrano un cazzo. Lei è un povero ubriaco, non c'entra niente. Sarà più grave uno che va di 40 anni che va a violentare una bambina di 12 anni? Ma sono storie che non c'entrano niente l'una con l'altra, sciocco di uno sciocco. Non c'entrano niente, solo in Italia succedono certe cose. Solo in Italia. C'è gente come te, hai capito? È per quello che succedono queste cose. Ci sono troppi rossi, dici, troppi rossi in giro, troppi rossi. Andiamo lì un momento lì dai nostri amici bulgari. E che c'hanno i bulgari? Anche lì, cosa questi qua vengono qua, pensano di fare tutto quello che vogliono e dopo, quando la gente si ribella dopo anni, si rivoltano contro. Sono sfruttati dagli italiani quelli, che dice? Sì, certo, difatti la nostra ministra Bellanova, non bastavano quelli che c'erano. Ne vuole regolarizzare 600.000. Certo, questo signore ha opinioni autorevoli su tutto lo scibile umano, proprio. Così, è proprio una persona autorevole. Abbiamo altri sfruttati, il motivo che li volete far venire voi Khmer Rossi. Tu li vuoi, dai, mi fanno comodo da sfruttare. Ciao Silvano, Pagate che la gente che lavora, poi vedete che vanno anche gli italiani a raccogliere i pomodori. Ciao. Pagate chi? Allora, Maurizio da Genova, avanti tutto. Dai, Maurizio, dimmi tutto. Ciao. Sono Maurizio e pratico il pissing. Bene, questa è una buona notizia. Quest'ora è una ottima notizia, questa cosa qua. Una novità. Non vorrei dare un dispiacere a David, che mi è così simpatico. Accidenti. Cioè, però, tu pratichi David, il pissing? Tu pratichi il pissing, David, regolarmente. E tu sei anche di sinistra, diciamo. Regolarmente. E sei abbastanza di sinistra, cioè, sono centro-sinistra. E di centro-sinistra. Vedi queste cose qua, David. Tu ogni volta chiedi perché partito ha votato lei, cosa ha votato le ultime elezioni. Questo signore da Genova è uno più o meno di centrosinistra, un moderato, diciamo, certamente. Un moderato, estremista, eppure pratica il pissing. Ma cosa vuoi fare? Pratico il pissing e fra l'altro vorrei testimoniare una cosa che testimoniamo. Che le donne con le quali pratico il pissing sono di estrazione sociale medio-alta, cioè tu dici dal tuo osservatorio privilegiato, le donne qui si vede che avranno il senso di colpa. Ma tu come lo pratichi il pissing? Un senso di colpa, una sindrome di Stoccolma che ama la comunità. Cioè, tu dici, essendo delle persone anche affermate nella società, poi si fanno sottomettere con il pissing. Questo dici tu, no? Questa potrebbe essere un po' la sottomissione col pissing potrebbe essere anche in realtà un piacere connaturato anche agli odori. Ma scusa, tu con chi lo pratichi? In che modo lo pratichi? Guarda, veramente sono stato traviato da una donna, come spesso accade io ero già un uomo maturo, avevo circa 35 anni all'epoca, conosco una ragazza che lavorava in un ristorante dove andavo abitualmente, eravamo in simpatia, un bel giorno siamo usciti assieme e poi lei, dopo il rapporto sessuale, mi ha portato per mano sotto la doccia, mi ha chiesto di pisciarle addosso. Molto semplice. Questa è stata la prima volta. Che ho sperimentato a mia volta con le altre donne. Sei un appassionato della materia. È bellissimo perché si mischiano gli odori, i sapori. Ho capito, ma anche tu ti fai pisciare addosso o no? È meraviglioso. Ma non è una sottomissione vera e propria. No, ma ti fai pisciare addosso anche tu? Ogni tanto sì. Molto bene. Se le fa piacere così, caro amico, io non ho niente da dire. Non vorrei sorprenderti. No, ma non mi sorprende. Io dico semplicemente che se a lei fa piacere così. Sì, ma se le fa piacere così, evviva, si faccia urinare addosso. attualmente sto frequentando una ragazza ebrea con la quale pratico il pissing. Ottimo. Ed è vero, ma giuro. Ma questo, giuro, normale, questo non è che gli ebrei non è che gli ebrei, cioè, come dire, non praticano queste robe qui. Cioè. Di estrazione medio alta. Scusami, una laureata, ma tu intanto voglio dire, la masturbazione che rapporto ha con tutto questa cosa qua? Cioè, in che modo si lega questa cosa qua? Cioè, è una cosa che fa eccitare? Lei si masturba mentre tu pratichi il pissing? Spiegami. Dunque, innanzitutto la donna, normalmente quando si pratica il pissing, uno dei due deve per forza stare inginocchiato, forzatamente. Beh, sì, o il maschio o la femmina. O per terra, o steso per terra. Diciamo, se c'è la vasca, puoi anche stare interamente steso. Sì. Se invece c'è una doccia, logicamente ti devi inginocchiare, no? Sì, sì. Dopodiché la donna spesso si masturba. Beh, e bevono anche. Beh, sì, questo è abbastanza ogni tanto. Ma giuro, Davide, è impressionante, lo so, però ma cosa me ne frega a me? Ma non me ne figuriamoci. Credi a quello che dice questo signore. Credi che è davvero una cosa molto normale, normale, diciamo, nello scibile sessuale. Ma te cos'è che fa eccitare? Non ho capito che cosa ti fa eccitare. L'odore mischiato, il fattore che ad esempio ogni tanto mi lecchi il piede, che naturalmente chiaramente essendo sulla base della doccia o della vasca, è chiaramente urinato e di conseguenza perché non si fa visitare. Ciao amico mio, ciao. Ci penserò sopra. Ciao. Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta La Zanzara. Eccolo. Io, Renato I, primate della chiesa minchiocefala della Zanzara, non voglio vivere in un mondo pervaso dal parenzismo. I love my radio. Ciao, sono Valerio da Londra e anche io mi seguo sulla categoria Ciubi. I love my radio. Capezzone. Allora abbiamo Fabiano da Roma, mi sa che Capezzone si è un po' incazzato per quella roba lì della prostituta, però amico mio, stacce, non c'è problema, cioè, che cazzo, dai, si può scherzare. Fabiano, dai, dimmi Fabiano. Ciao a tutti, buonasera. Dimmi. Vai. Allora, innanzitutto ti voglio dire una cosa importantissima, devo fare i complimenti a Sgarbi, che è il più grosso pensatore libero italiano, e mi auguro che tu possa diventare come lui, a Vittorione Sgarbi. Vabbè. Poi andiamo avanti, dai. E poi voglio fare gli auguri a stasera per Parenzo, che mi auguro che non faccia il 2%, cioè, ti prego, Parenzo. Ce lo auguriamo tutti, vai avanti Fabiano, dimmi, dai. Vabbè, vai, forza, non ce ne frega un cazzo dei complimenti, forza, dai, avanti. Allora, ultimamente voglio portare a questione l'idea del fatto che Parenzo non riesce più a intrattenere la discussione senza offendere colui che la porta, questa idea. Sì, dipende dal livello della discussione, glielo spiego io. Stai tranquillo, no, quello che hai fatto con io sono tranquillissimo. È stato pessimo. Dipende dal livello della discussione, amico. No, ascolta. Vabbè, no, Fabiano, non ce ne frega un cazzo, ciao, non me ne frega niente, ciao. Con noi la grandissima Paola Saulino. Eccoci qui, Paolina. Ciao ragazzi. Dimentichiamoci, Madonna, tutte cose pesanti. Mamma mia, guarda. È Parenzo che ci mette mamma l'ansia mia. Di continuo. L'ansia. Un'ansia continua. Il tempo, la lagna, mamma mia. Mamma mia. Divertiamoci. Allora, io voglio affrontare un tema fondamentale che ho visto un po' molto in un bene. Tuo tutorial, il leccame delle palle, che mi sembra un tema essenziale per i nostri tempi, soprattutto nei rapporti di coppia. È molto sottovalutato. In realtà io lo pratico da parecchio tempo, nel senso faccio praticare da parecchio tempo. Beh, sì, assolutamente. Una delle prime cose, se una donna non mi lecca i coglioni, ragazzi, di che ma stiamo parlando? Innamorata. Non non gli piaci proprio, ma non si può stare brava, con una persona diciamo la verità. Non si è desiderati. Donne, dai, dai. Donne, se non leccate i coglioni mamma al vostro mia, compagno, le palle al vostro compagno, non siete all'altezza della situazione, cioè non siete mamma mia, mamma mia. Ma diciamole le cose come stanno, belle precise. No. Però tu utilizzi giustamente il leccaggio del pallame, il leccaggio del pallame. Il come pallame si... spesso viene sottovalutato e invece un bel pompiname include assolutamente. Assolutamente. Anzi, il management pallamico. Ma perché parla in questo modo idiota lei? Non ho capito. No. Lei è una sporcacciona che ammanta tutto. Bravo. Ma non sempre un motivo ci sarà. Io, esatto, ma bravo. Io non lo so, ma io non stia chiamo zitto, proprio nessuno. Stia zitto, stia ma io non zitto. Chiamo proprio nessuno, sa. Stia... Io non chiamo ma nessuno. Tu, dico solo che stia non, zitto, non stia... faccia l'ipocrita, non faccia l'ipocrita. Taccia. Di queste porcherie taccia. Parli normalmente, anziché pallame, culame. Questo parli è... normalmente. Taccia. Questa è pura filosofia, è pura filosofia. Arte, arte, arte. Ma la poesia di Parenzo che però dice pallame, culame, è veramente poesia, è meravigliosa, celestiale, grazie. Sì, ma lo sai come la penso, Paoletta. È una povera sporcacciola. Ma che povera sporcacciola, stai zitto, allora però tu hai ragione su una cosa, cara Paola, cioè il pompiname, come dici tu, deve includere per forza il leccaggio del pallame, cioè dire, se, assolutamente. Adesso, come dovrebbe essere quello, diciamo, il leccaggio del pallame, come dovrebbe articolarsi, come si dovrebbe... come si cerco, dovrebbe fare? Dimmi. Sì, cerco di spiegarlo al povero Parenzo che purtroppo non ha mai goduto di questa gioia, no, ma è una purtroppo cosa no, purtroppo lei, no, non ma credo. Che ne sa lei? Non che ma io a differenza sua non sono un esibizionista, però a differenza sua. Bravo, allora faccia il pagliaccio altrove, vai, noi spieghiamo qui il pallame. Mi dica, allora, mi dica signora, mi dica. Allora, il pallame signora. È una cosa che va accarezzata, innanzitutto bisogna testare la sensibilità pallamesca del proprio partner. Quindi io comincerei prima con un bel massaggio, quindi proprio handle the ball. Sì, no? Handle the ball, sì. Il management pallamico prima anche se uno mani. Magari può anche non avere tempo quando uno non ha tempo di fare proprio il primo maneggio, diciamo il... sai che è, Giuseppe, che io preferisco un sesso fatto bene. Ultimamente si pratica del sesso sciatto. Vabbè, comunque partiamo col maneggio delle cose, poi io comincerei a leccarlo, prima leccarlo e poi introdurre il pallame in bocca, se riesci tutte e due le palle. Ah, se riesci tutte e due, mamma mia, le mamma mia. È quello sta il fatto, sporcacciona. Il succhiaggio pallamico. Il succhiaggio pallamico possibilmente di tutte e due insieme? Di tutte e due insieme se ce la fai, cioè perché c'è proprio io mi addormenterei col pallame in bocca proprio perché rilassante mi sembra proprio di rilassare il mio corpo. Ma questa è pazza, è da farsi curare questa. Anche quando ho finito l'amplesso cerco comunque la palla in bocca, il pallame mi rassicura, un senso questo di è interessante. Di amore. Però tu dici non c'è solamente il pallame, c'è anche quella parte, ecco, quella parte di mezzo, che vuol dire quella ma di cosa vive questa qua? Di cosa vive? Silenzio. Quella parte che praticamente noi comunemente possiamo intendere come terra di mezzo, io la chiamo Mesopotamia, quella porzione di terra tra le palle e l'ano, viene spesso sottovalutata durante l'atto o durante il pompiname. E invece il leccaggio mesopotamico, il leccaggio mesopotamico è fondamentale. Allora cerchiamo di capire esattamente in che territorio siamo, cioè allora dopo o prima avere esercitato il pallame. Esatto, per ustato il pallame, una sola, preferibilmente due insieme, eccetera, eccetera. Sì. Leccato e ingoiato, diciamo, il pallame. Il pallame, io lo gradisco liscio, bello lucente, però ognuno ha il pallame che vuole. Senza peli, senza peli lo preferisci. Sì, pure sì, tu. Il pallame glabro, insomma, glabro. Il pallame bello. Però c'è una terra di mezzo, cioè tu dici, se uno, che è quella che porta, diciamo, quello che sostiene il pallame poi alla fine, quella parte è il sotto. È il ponte tra l'ano e le palle, che è poi l'inizio anche di quel muscoletto che si chiama cremastere, che determina la temperatura del pene in erezione, nonché l'erezione stessa. E tu quindi, dici di andare a insistere lì, è fondamentale insistere lì. È fondamentale perché innanzitutto innanzitutto è una zona molto sensibile, sì, e poi l'uomo spesso si priva, per questioni di tabù, si priva di questo piacere perché crede che quella perlustrazione di quella zona possa introdurlo al gaiame, insomma. Sì, ma no, in realtà, per carità. Ma in realtà uno può essere o non può essere gaiamico, l'importante è godere, che è una cosa. Ecco, perché è fondamentale insistere per la donna su quel territorio lì mesopotamico, diciamo, quello sostanzialmente che porta dal pallame fino al culame, cioè allora, quella zona per lì. La donna è bello perché quando ti piace un uomo, cioè, vuoi fare di tutto, quindi sì, se sì, tu delle cose non le vuoi fare, hai la sensazione che non le vuoi fare, cioè puoi star già certa che stai facendo sesso con l'uomo sbagliato. E soprattutto, soprattutto che lui se lo farà fare da altri, se non lo vuoi fare, alla fine lui se lo fa. Mia moglie non ingoia, no, allora non ti ama, capisci? Ah, questo pure è fondamentale, se tua moglie non ingoia vuol dire che non ti ama, questo pure non mi sembra. Convenienza, perché una donna che ama un uomo ingoia, vuole ingoiare, ma certo, vuole succhiare il pallame e fare il leccaggio mesopotamico. Mi pare fondamentale, se ami vuoi uno ingoiare, due sì, fare il leccaggio del pallame, tre stare sulla il zona mesopotamico. Ecco, il capire se si ha davanti un uomo predisposto . È semplicissimo, sì, perché ci stanno proprio degli atteggiamenti, delle azioni, sì, dei movimenti, sì, sì, che l'uomo fa per capire che va trovando il leccaggio mesopotamico. Sì, per esempio? Per esempio, lui steso, io per esempio faccio del pompiname molto comodo, sì, lui steso e io da sopra che per esempio faccio il succhiaggio, sì, all'improvviso se lui alza un poco le gambe, sì, è vero, fa scoprire la parte anale, significa che c'è una certa predisposizione. Mamma mia. E questo mamma è un passaggio. Allora vai lì a perlustrare. Un passaggio però, importante. Però dici? Però se hai intenzione di ficcare dita o cose varie, no, perché devi avere la sicurezza, la certezza che l'altra persona è consenziente. Però questo quindi, stiamo parlando di altre cose. Qui stiamo parlando, sì, poi affronteremo un'altra volta il perché il maschio, sì, spesso è restio ad affrontare, diciamo, la penetrazione anale, sì, anche infatti, con le dita e con la lingua. Ecco, sì, il leccaggio lì, l'uomo tu dici deve in quella posizione. C'è qualche altra posizione in cui l'uomo assolutamente sì, perché per esempio, quando lui è all'impiedi, ecco, e la donna invece è inginocchiata o comunque sta, che ne so, sul divano, sta più in basso o su una sedia, punto, cioè, sì, l'uomo per far sì di aprire, di predisporre insomma, sì, quella zona, sì, alla lingua della partner, alza una gamba, mamma per esempio una F su una sedia, alzando quella gamba predispone la zona già verso e da lì canto. Capisci, una donna capisce che l'uomo è pronto per quella roba lì, è predisposto, te lo sta chiedendo senza parole, però la donna tu dici senza questa mossa dell'uomo, senza queste mosse lo deve fare lo stesso, deve andare subito direi provate ad accennare se è una cosa che sentite voi che vi può far piacere per lustrare, però se all'uomo non fa piacere, ragazzi, ma di che parliamo? Però se all'uomo non fa piacere, no, perciò infatti molte cose bisogna anche stabilirle prima, perché tu devi avere il consenso dall'altra parte, quindi se vuoi esplorare invece con cautela, comunque ragazzi abbiamo concluso questo piccolo excursus, questo piccolo tutorial, sostenendo che il leccaggio pallamico e il leccaggio mesopotamico di quella zona, nel rapporto di coppia, ragazzi, è fondamentale, cioè non si può sfuggire a questa roba qua, non si può sfuggire, no. Altrimenti per l'amore. Parenzo, è vero che per l'amore, naturalmente tu avrai praticato, Parenzo, prima o poi il leccaggio pallamico l'avrai praticato, ho detto più volte, se tu che la metti, ma se la metti su questo, sul leccaggio mesopotamico, nessuno ti potrà dire nulla. E cara, adesso non dico il nome, pratichi il leccaggio mesopotamico, quello che dico, sembra un po' più artistico, un po' più culturale, sì, senza dire parole brutte, è un modo per ammorbidire ma lei quello come che si guadagna da vivere oltre a parlare della cosa ma fa l'artista su internet, la showgirl, rompere il coglione, quale artista? Andy Warhol era un artista, quale artista? Questa è una che parla di pallame, culame, chillame, questa è una porella, ma è un genio, artista. È un genio, lei Parenzo non potrà ma mai quale arte? Ciao Paola, ma un abbraccio, una poveretta, viva lo show, viva la vita, ciao. Ma è pazza. And the sun. Fineco, la banca numero uno in Italia nel trading. Vi presenta La Zanzara. Oh, grande Cruciani, anche tu mi hai aiutato a smettere di drogarmi. Sono pulito da 6 mesi quasi. Non tocco cocaina e crack da 6 mesi. Sono veramente un'altra persona. Ho salvato qualche dente. Vi ringrazio, grazie a tutti, grazie a tutti. Ciao, ciao, arrivederci. Sento le voci, sì, mi sento chiamare dalle mie fantasie. Yeah! Sento le voci, sì, mi sento chiamare dalle mie fantasie, dal profondo del mare, dalla TV, dalle porcherie, dal silenzio dei sogni inconfessabili. Demone scimmia! Demone, perché ha chiamato oggi? Com'è la situazione lì in comunità? Ma solita merda! Un dottore chiamato un dottore. Cosa? Qui c'è un ragazzo che muore affogato nella palude. Quando? Del Nazional Popolare. Papi! Non vedo la lucetta rossa. Come mai? Se potete chiamare i carabinieri, ci sarà qualcuno all'ascolto? Mi chiamo Vittorio da Firenze e anche io piscio fieramente nei lavandini. I love my radio. Ciao, sono Federico da Mantova e anche a me piace fare le scorregge vestite, quelle che lasciano la sgommata nelle mutande. I love my radio. Ciao, sono Francesco da Parma, avvocato per una grande multinazionale e sì, anche io mi faccio il bidet nel lavandino. I love my radio. Ciao, sono una ricercatrice universitaria, mi lavo poco, piscio nella doccia e squirto tantissimo. I love my radio. Tutto vero, caro Parenzo, so che per te è una umanità complessa, un'umanità complicata, però io ripartirei in realtà da un personaggio che già conosciamo facendoti sentire qualche audio, il signor Franzoni, qualche audio, il matto che ha pisciato a Palazzo Chigi, sul muro di Palazzo Chigi. Senti questi audio recenti di qualche giorno fa, poi magari lo chiamiamo. Noi stiamo creando quindi una comunità, una setta di credenti, dove dentro ci devono essere le persone certissime di cui noi ci possiamo fidare. Così come stiamo facendo sul territorio, costruendo cellule come erano i vecchi partiti tradizionali. Oggi abbiamo già fatto vedere la tessera del nostro movimento che comincerà a essere distribuita a Milano il giorno 4. Inizieremo dalle 10 del mattino a tesserare le persone. E noi stiamo dando, e per questo ci stanno censurando, un colpo secco alle lobby che comandano il mondo. E mi riferisco a quella Merkel e a quella che io chiamo Merdel, a quella von der Leyen, a quella Lagarde, che governano l'economia del mondo in nome per conto del New World Order, del nuovo ordine degli illuminati, che voi pensate, molti pensano, siano frutto della mia immaginazione. 3 mesi fa, io iniziando questa battaglia politica sull'asse territoriale locale, dicevo cose che le persone non riuscivano a comprendere. Poi dice che gli ebrei hanno in mano tutto, che il vaccino verrà creato per ucciderci, ma chiamiamo, dai, chiamiamo, chiamiamo. Sì, pronto. Ma di che ti lamenti adesso, Franzo? Non ho capito. Ciao, bene. Ciao Cruciani, come stai? Di che ti lamenti? Di che ti lamenti? Non ho capito. Che ti minacciano di morte? Di che ti lamenti? C'è una situazione un po' difficile. Sono andato a Torino a un comizio e continuano minacce continuate sui miei telefoni. Ma ho capito, amico mio, ma ne hai dette di tutti i colori e ti stupisci che qualcuno ti minacci di morte su internet? Di che parli? No, ma è un sistema questo che non va più bene, cioè nel senso che Noi abbiamo, non abbiamo minacciato di morte nessuno. Ma hai detto andiamoli a prendere, hai detto andiamoli a prendere in Parlamento. Ma andiamoli a prendere cosa significa? Ma hai detto le peggio fuori, cose, dai, su. Buttarli fuori a calci dal Parlamento. Beh, ho capito. Ma che cos'è, un'istigazione alla violenza? Beh, questa, insomma, non lo so, potrebbe anche essere, cioè potrebbe anche essere. La Digos ha preso tutte le precauzioni nei miei confronti e hanno voluto tutti i certificati assicurativi di tutte le mie aziende, delle mie proprietà, delle case, delle macchine, della mia persona. Ma saranno quattro cazzoni? Chi è che ti minaccia? Per chi sei una minaccia? No, non sono più quattro cazzoni, non sono più estesa a livello nazionale questa sorta di minaccia. Cioè, ma questo è vittimismo, dai, su. Su tutte le chat che apriamo in tutta Italia, da Bolzano a Torino a Milano, ma hai detto minacce di tutti, sì, ma di hai tutti, detto, non più dei Cararini. Sì, ho capito, Franzoni, hai detto che bisogna andare a prendere quelli del governo, a prenderli a calci nel culo. Certo, cioè, bisogna sbatterli fuori a calci dal Parlamento. Beh, ok, poi ti stupisci che qualcuno ti minacci. Cos'è? Ma questa qua è un modo di dire. Hai pisciato, cioè, davanti a Palazzo. Ma Cruciani, non ho mica detto di ammazzare la gente come stanno dicendo di me, che mi devono fare fuori, mi devono ammazzare, uccidere Franzoni non è reato, volantini con Franzoni sgozzata a testa in giù, ma sì, ma ti capito, sembra normale? Ma no, è una campagna no, ma scusa, d'odio questa. Sì, ma una campagna d'odio, ma non è nessuno, sono quattro cazzoni su internet, chi vuoi beh, che sia. Allora se lo ritieni te parla con la Digos, ci parli te. Ma no, ma la Digos sa quello cazzoni. Che deve fare, ma se uno sono dice. Sono venuti a fare i sopralloghi anche nei miei locali. A allora, ma se tu dici che il mondo è in mano alle lobby giudaico-massoni. È vero, ti meriti soltanto vero, non le che, minacce, ti meriti che arrivino delle persone vestite di bianco, ti carichino su una macchina colorata con una luce blu sopra. Sì. Sulla fiancata scritto ambulanza e ti portino al più presto in una territoriale, in un ospedale, guarda, in una struttura adeguata. Ti confermo che i poteri centrali mondiale sono in mano alle lobby giudaico-massoniche e principalmente agli ebrei. Che controllano tutta la carta stampata. E perché non ti hanno ancora, guarda, non c'è la carta stampata, controllano tutto, controllano giornali, televisioni. Quali giornali? Ma dove? Quali giornali? Ma qua che Berlusconi è ebreo secondo te? Ma Cairo Berlusconi, ma che cosa dici, cretino? Ma diglielo anche tu. Di chi è Radio 24? Di chi è? Di chi è? Di Rothschild? E di Soros? Ma lui parla del mondo. Ma di chi? Quale mondo? Ma no. Chi è? Stiamo parlando del nulla. Del ma nulla. Quale nulla? Il nulla. Allora, te forse non sai che tutto il potere economico americano tutto emana di ebrei. Ma che c'entra adesso con tu? Ma che c'entra adesso con Franzoni? Dovete studiare, ragazzi. Dovete studiate, controllate quello che vi sto dicendo. Ma cosa controllate? Ma cosa vuol dire controllate? Ma controlla i neuroni che hai nel cervello. Leggete e informatevi. Questi ti dicono leggete e informatevi. Questa è colpa tua, Cruciani, perché questi questi matti chiamano e dicono leggete e informatevi. È colpa tua, Cruciani, sei un assassino. No, la colpa è solo tua. Ma scusa, mi fai parlare o vuoi parlare? No, ma figurati, io dico solo che è colpa di Cruciani. Ma perché che colpa mia? Che è colpa tua, perché la gente qui chiama e dice informatevi, fatemi parlare, sono sbarcati gli UFO. E Cruciani che dice, ah interessante, dica, altra chiamata. Ma quale altra chiamata? Devi solo dire vai a fare il culo, non un'altra chiamata. Io capisco che voi difendete gli antifascisti che sono al soldo di queste lotti. Gli antifascisti, che c'entra gli antifascisti al soldo delle lotti? Io parlo di dati. Ma chi sono questi protagonisti di questo nuovo ordine mondiale? Chi cazzo sarebbe? Mamma mia. Togli via la voce. Ma scusami Cruciani, ma tu vai su YouTube, dici chi New World Order e ti danno la lista dei nomi. Sono un centinaio di famiglie principalmente. Uno va su YouTube e capisce chi governa il mondo. Uno va su YouTube e capisce chi governa il mondo, e poi è colpa mia. Perché vi dà uno schema didattico economico. Ma vai a fare il culo pure te, dai, su. Che governano l'umanità, ma guarda, questa è una certezza. Ma quale certezza? Ma hai detto anche che non bisogna pagare le tasse. Hai detto certo, anche di più, ho detto che bisogna far fallire lo Stato e ingaggeremo una rivolta fiscale per far fallire a te ti manderanno in galera e forse confermi cosa? Se non vuoi pagare le tasse non paghi e alla fine confermo che ci vuole la rivolta fiscale in Italia passare all'apparato pubblico di questo paese quello che l'apparato pubblico ha fatto passare al privato, perché solo quando le forze armate non verranno pagate 190.000 militari che succede? Lo stipendio, scoppierà la rivoluzione in Italia. Ah, tu vuoi fare il colpo di Stato? Il colpo di Stato? No, io voglio la rivoluzione. Voglio, il colpo di Stato, i militari al governo. Ti piacerebbe i militari? La rivoluzione in questo paese, perché per distruggere il sistema operativo di questo Stato ci vuole la rivoluzione. Se ma non quale rivoluzione? Ma è una roba, macchiettistica. Ma sei una macchietta. Sei una macchietta. Hai organizzato, hai detto che bisogna organizzare le cellule. Hai detto che bisogna organizzare le cellule. Le cellule. Bisogna organizzare in cellule territoriali come era il vecchio Partito Comunista per tentare di radicare un movimento senza traditori, chiaramente, perché poi sai ci sono persone che hanno paura dello Stato, noi non abbiamo paura e quindi non ci fa paura la polizia politica. Non ci fa paura. L'unico gesto che hai fatto è pisciare a Palazzo Chigi. Questa è l'unica cosa che hai fatto. Io sentivo con attenzione ora 10 minuti fa l'intervista a Fusaro, in cui diceva che arrivando a Milano col treno è stato chiesto di togliere i locali, è stato identificato. Per i controlli sul coronavirus è una vergogna. Stiamo passando verso una società che, in ragione di un bluff che è il coronavirus, vuole semplicemente censire e controllare i cittadini. Andiamo verso la massificazione. Cioè lo ma stato che dici, Franzoni? È il controllo normale delle persone, il controllo normale che si fa quando arrivi. Il controllo normale. Andiamo verso la schedatura delle persone. Ma quale schedatura? Ci sarà una progressione continuata. Ma poi che vuoi? Che parli tu di libertà se sei un ammiratore di Mussolini? Parli di libertà se sei un ammiratore di Mussolini? Ascolta, le schedature ti dovrebbero piacere a te. Quando si parla di Mussolini si chiama Sua Eccellenza. Quindi questa è la prima cosa che devi dire. Io scusami, perché ogni volta che sento questo. Questo è un dato storico Sua Eccellenza. Che poco c'entra con la realtà economica del paese. Se le ha autodato quel titolo, come l'alto della Chiesa autocefala. Si è autodato il titolo di Sua Eccellenza, se l'è autodato lui. Storico. Se non ci fosse stato Mussolini non ci sarebbe l'Italia oggi. Hai detto che vuoi hai a cuore la libertà e poi citi Mussolini come modello, Sua Eccellenza, ma ti rendi conto? Allora, Frazzò, Mussolini ha costruito tutte le strutture, le infrastrutture, le scuole, le strutture. Tutta l'Italia l'ha fatta Mussolini. Sua Eccellenza ha costruito il paese. Se oggi c'è l'Italia bisogna ringraziare Benito Mussolini, ma questo non c'entra con l'azione politica. Parliamo di storia, non di politica. Mettiti in contatto con Carminati, che è uscito dalla galera. Ma Carminati non le dice queste cose, Carminati. Ascoltami, io ti faccio una previsione smentita. Qual è la previsione? Se noi continuiamo con questa azione di governo, come succede? A ottobre avremo 6 milioni di disoccupati. Vabbè, ma questo sti cazzi. Questo lo dice pure la Meloni e Salvini, lo dicono. Però sarà colpa del governo centrale di questo paese. Stanno vendendo l'Italia. Ma organizza il colpo di Stato come fece Tognazzi con i colonnelli. Sarà una cosa silenziosa, perché vedi, la storia ti insegna che le rivoluzioni sono di due tipi: o chiassose o silenziose. Stiamo gettando le basi in tutto il paese. Ma dove stai gettando le basi? Ma siete due poveracci, dai, su. Sapremo ridire. Sì, contateci. Ma siete due poveracci, dai, su. Siete due macchiette, siete due e l'altro bianchi. Siete due macchiette mussoliniane, due macchiette filo mussoliniane, dai, su. Va bene. E cos'è? Cos'è? Vogliamo i colonnelli, la musica del film. Vogliamo i colonnelli. Dai. Vogliamo i colonnelli. Ma comunque. Vai, ciao rivoluzionario, fai il colpo di Stato. Buona serata, ciao. Ma va a quel paese. Lei si sta sbagliando. È normale. Maddalena da Firenze, vai avanti, dimmi Maddalena, dimmi. Senti, devo un po' infamarti stasera, mi devo spiegare. Perché? Dimmi perché. Prima di tutto perché sono d'accordo nel parlare del sesso in maniera libera, allora però che vuoi? Fiori, madonna, dei livelli bassi, veramente da pervertito. In che senso? Fammi un esempio. Ma proprio livello basso oggi, ma... del pissing, ma in generale quella della fia pelosa l'altra volta stava a... aspettavo di dover parlare con te, invece il livello alto, livello basso, perché il livello alto tuo quale sarebbe? Allora il livello alto tuo quale sarebbe? Spiegami. Ma non lo so, ce ne sono mille. Non lo sai, non lo sai che cazzo dici allora? Non lo sai, non ma lo sai. Cosa dici? Non lo sai. Ma certo che lo so. Quale sarebbe? Cosa... quale sarebbe? Ma non dimmi, sa fammi cos'è il perineo, Cruciani, sì, non so cos'è. Lo sai te cos'è il perineo? Sì, è vero, sì, io lo so, sono un veterinario, lo so anche di molto bene cos'è. Dunque? E seconda cosa, fai disinformazione in un livello così basso. Sì. Cioè, l'altra volta hai affermato che Conte sarebbe stato dello stesso livello. Conte dello stesso livello di Pappalardo, hai detto. Ma quando Conte almeno sa che cos'è il diritto. Ma non so, ma di che, ma non so nemmeno di che cosa parlare. Figuriamoci se paragono Conte a Pappalardo, dipende cosa dicono. Hai detto che hai fatto un'affermazione, detto che Pappalardo al governo sarebbe stato uguale a Conte, cioè posso dirti, è un'affermazione di una vergogna schifosa, una vergogna schifosa. Sì, Maddalena indignata, Maddalena indignata. Ma vai a cagare, pervertito. Io non so cos'è il pissing. Bavi per della gente tipo quella di prima, Corina. È di sicuro una brava ragazza e sono d'accordo. Ma tu che cazzo fai? Di mestiere che fai tu? Scusami, Maddalena. Io sono veterinario. Sei un veterinario. Anche il braccio benissimo. Cioè, allora stai contestando lo show della signora. Vabbè, ma lascia perdere il mio livello basso di cultura. Allora, se vuoi non mi ascoltare, non mi rompere i coglioni. Ma infatti, ti volevo dire. E non mi rompere il cazzo. Benissimo. Allora, benissimo. Ottimo, ottimo. Sono contento. No, non c'è bisogno. Guarda, ma figuriamoci, che me ne frega. Non vedo l'ora, ma non me ne può fregare. Ma non me ne può fregare di meno di quello che dici. Non hai capito ancora. Ma non me ne frega niente. Sì, invece bello. Esatto, faccio cagare. Capito? La gente che ti dà retta. Sì, certo. Il problema è questo. Infatti, sto sentendo te, figuriamoci. Allora, infatti sto sentendo te che mi dai retta, infatti. La signora Saulino di prima, una grande performer, e tu non sei un cazzo al suo confronto. Italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8. Lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Chi ti ha pagato, cazzo? Dillo, sei il coglione!